Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. In questo periodo di festa anche essere avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, si prende una pausa. Torneremo con le puntate nuove a partire da domenica 11 gennaio. Quello di oggi è un giro di ripasso, per così dire, consentiteci l'espressione. Vi riproponiamo la puntata in cui abbiamo parlato di stangata bianca, come aggirare il caro neve per godersi la montagna. Parliamo poi di libri e dinamiche di acquisto e per il focus sui trend di Pink Style, quando i consumi sono in rosa. Partiamo come sempre con le notizie e curiosità del nostro GR Consumatori. Potrebbe essere davvero agli sgoccioli la direzione ventennale di Anne Wintour a Vogue America. Per la donna che ha ispirato Il Diavolo Veste Prada, il problema sono i conti. La crisi dell'editoria ha mangiato pagine di pubblicità anche alla patinata e voluminosa Bibbia della Moda. Come il famoso formaggio, anche le scarpe invecchiano nelle fosse scavate nel terreno. Il maestro calzolaio Silvano Lattanzi, fornitore fra gli altri di John Kennedy, George Bush, Nicolas Sarkozy, Vladimir Putin, Elisabetta d'Inghilterra, Riccardo Muti e Arnold Schwarzenegger, ha voluto sperimentare questa sorta di deumidificazione naturale per ottenere un particolare effetto vintage. Uno spazio che unisce libri, cultura e cibo di qualità a prezzi accessibili. Ha aperto a Bologna l'Ambasciatori, libreria, caffetteria, osteria, enoteca, birreria e contenitore per eventi. La struttura, 1200 metri quadrati su tre piani, ricavati nell'ex mercato ottocentesco in pieno centro storico, porta la firma di librerie Coop e Italy. Pepsi cerca il volto da stampare su 60 milioni di lattine. Con il concorso Be The Face, l'azienda selezionerà 32 consumatori che campeggeranno per tutto il 2009 sulla famosa lattina. Sul sito pepsi.it è possibile partecipare e votare la faccia preferita. Arriva il nuovo Terre di Mezzo. Per coinvolgere i lettori, il primo street magazine italiano lancia la campagna Corsa Straordinaria. Su specialeterre.it è possibile leggere in anteprima i contenuti del giornale e sostenere l'iniziativa. La borsa della spesa. Oggi la nostra shopping bag è uno zaino che ci portiamo in montagna per uno slalom molto speciale tra i prezzi di attrezzatura, ski pass e alberghi. Quest'anno più che mai si parla di stangata bianca, ma la crisi fa aumentare anche offerte, promozioni e strategie low cost. Per chi, complici le eccezionali nevicate che hanno ben avviato la stagione, non vuole rinunciare alla natura e al divertimento. Il costo medio di uno ski pass nelle principali località sciistiche si aggira intorno ai 36 euro. L'aumento medio dell'abbonamento giornaliero rispetto allo scorso anno è di circa 1 euro, anche se ci sono località che hanno mantenuto il prezzo invariato, Madesimo, Courmayeur, il comprensorio Monte Rosa Ski, ed altre, Cortina e il comprensorio Dolomiti Superski, che lo hanno addirittura ridotto di 2 euro. Ma ci sono anche piccole stazioni, al di fuori dei grandi comprensori, dove il giornaliero costa 20 euro, Lurisia Montepigna nel Cunese, 22, Passo Brocon Lagorai in Trentino, o 23, Crevacolle e Champorché in Val d'Aosta. Per risparmiare si può puntare sulle promozioni, carnet, pomeridiani, riduzioni di bassa stagione o infrasettimanali, pacchetti hotel più ski pass e le formule famiglia. Nel comprensorio Via Lattea in Piemonte, acquistando lo ski pass si riceve un coupon di buoni sconto da usare per fare la spesa, il pieno di benzina e altri servizi. Anche il costo dell'attrezzatura resta una spina nel fianco per gli appassionati della montagna, tanto che l'anno scorso il fatturato del settore è calato del 30%, quasi del 50% negli ultimi tre anni. Dopo il passaggio dagli sci classici ai carver, il rinnovo di sci, scarponi, attacchi e abbigliamento da neve è andato sempre più diradandosi. La spesa minima necessaria ad ammodernare la propria attrezzatura oggi si aggira intorno ai 1000 euro. Una soluzione sempre più praticata è quella del noleggio. Permette di non impegnare grosse somme e di avere sempre a disposizione le ultime novità sul mercato. Affitto giornaliero, settimanale, ma anche stagionale, con la possibilità di cambiare più volte modello e marca degli attrezzi. I prezzi? Sci più scarponi top di gamma, 400 euro per l'intera stagione. Per il conto finale della vacanza sulla neve bisogna poi calcolare viaggio, albergo, lezioni con il maestro per l'individuale da un'ora a prezzo minimo 28 euro, massimo 50, e panino nel rifugio. Ma la montagna non è solo sci da discesa, sono moltissime le discipline alternative, nuove o vecchie da sperimentare, dal fondo allo sci alpinismo, dalle ciaspole, le racchette da neve, al kite ski, sci ai piedi e aquilone da trazione sulle spalle, versione invernale del kite surf in mezzo alle onde, dall'ice climbing, l'arrampicata sul ghiaccio, fino al www, si chiama così ma non ha nulla a che fare con internet, è il Winter Wander Wege, letteralmente passeggiata sui sentieri invernali, una delle ultime tendenze dell'escursionismo su neve. Tutte discipline dall'attrezzatura molto meno costosa e per le quali non è necessario acquistare lo ski pass. E poi c'è lo Snow Cross, Snow X per gli addetti ai lavori, metà bici, metà tavola da snowboard. È adatto anche per chi non sa sciare ed è stato inventato da un fan del motocross, Angelo Mattellini, che ora sogna di farlo provare a un campione, ma non di sci. È composto da un telaio in tubi di acciaio ad alta resistenza, con una serie di leveraggi che portano dei movimenti a una tavola da snowboard quasi normale. È un mezzo adatto al freeride, quindi discese, curve molto ampie, un po' una via di mezzo tra il surf come stile di sciata, ma ovviamente con un manubrio in mano, e questo è anche divertente. Una guida di tipo motociclistico consente anche a bassissime velocità di divertirsi, di fare derapate, piccoli salti. Io ho un sogno nel cassetto, avere la possibilità una volta nella vita di fare una discesa con Valentino Rossi. In attesa allora di vedere Valentino Rossi sullo Snow X, noi cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo di libri, questa volta dal punto di vista delle dinamiche di acquisto. Oggi parliamo di come gli italiani acquistano prodotti culturali. Gli uomini effettuano gli acquisti maggiormente d'impulso e in genere comprano per se stessi, non chiedono aiuto ai librai e frequentano le librerie più per curiosità che con reali intenzioni di acquisto. Le donne, al contrario, pianificano gli acquisti di libri come se facessero la lista della spesa, strumento quanto mai utile nei momenti di crisi economica. Lo racconta un libro abbastanza inusuale edito dal Sole 24 Ore, Come acquistano gli italiani, di Carlo Meo e Daniela Ostidic. Abbiamo scelto l'analisi sugli acquisti dei libri perché emergono sia nuove tendenze sia qualche dato poco conosciuto. Le donne comprano i libri, oltre che per sé, anche per fare regali. Per arrivare al libro da acquistare chiedono al libraio molte informazioni perché in genere conoscono bene l'autore o il tema del libro. Vogliono conferme. Se il libro da comprare nel supermercato, rallentano la corsa e sfogliano, se possono, il libro. Mediamente toccano 8 titoli nel supermercato e 3 soltanto nella libreria. Nel supermercato il cliente compra di solito il primo volume esposto a scaffale, mentre in libreria prende un volume fra gli ultimi della pila. Il prezzo è quasi secondario, per assurdo, nel supermercato e nell'ipermercato rispetto alla libreria. Il fatto che il prezzo non sia la prima variabile di acquisto, come per altri beni, è dovuto allo sconto, ben visibile, del 15%, e poi perché libro e sconto sono proposti dall'insegna di fiducia. E l'acquisto di un libro fa accumulare punti per il catalogo fedeltà, come tutti sappiamo. Cioè, se va bene per le scatolette di tonno, figuriamoci se non va bene anche per i libri. Mai più senza. È un vero e proprio evergreen del design, presente sul mercato e nelle nostre case dagli anni 60, è il pezzo cult della settimana a cura di Silvana Annichiarico, direttore del Triennale Design Museum. Accanto alla grande lezione di stilizzazione formale, la libertà di articolazione spaziale degli arredi costituisce il principale motivo di successo della lampada da terra a luce diretta Arco, disegnata nel 1962 da Achille per Giacomo Castiglioni per l'azienda Floss, in modo da svincolare la collocazione del tavolo da pranzo o da lavoro dalla posizione predeterminata del punto luce a soffitto. Gli elementi compositivi, come sempre nei progetti dei fratelli Castiglioni, sono semplici ed essenziali. L'accostamento di materiali diversi come marmo, acciaio e alluminio è senz'altro audace e suggestivo, ma è lo slancio elegantissimo dell'arco a imprimere al lampadario il suo fascino e la sua originalità, senza dimenticare l'efficacia funzionale dell'oggetto. Essere e avere. Bentornati in studio con Essere Avere, come di consueto la seconda parte è dedicata all'analisi delle nuove tendenze. Ci ha raggiunto Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di sociologia dei consumi e della moda all'Università di Bologna. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Oggi parliamo di consumi al femminile. Pink Style è il titolo che abbiamo scelto per questa puntata, tutta dedicata ai prodotti, ai servizi, alle strategie di marketing e di comunicazione declinati in rosa. Qual è il modello di donna che si sta imponendo? Dopo la working girl, la donna in carriera anni 80 e la donna trasgressiva anni 90, l'universo femminile contemporaneo è in completa evoluzione dal punto di vista dei consumi e conquista fette di mercato un tempo esclusivamente riservate agli uomini. Patrizia. Sì, in termini di quote di mercato il mondo femminile è certamente una mega nicchia, dalle librerie delle donne ipertargetizzate nell'offerta fino ai casi come quelli dei campi di allenamento prematrimoniali in stile militare per le nuove spose d'America che spopolano a New York e a Los Angeles. Diciamo che quello femminile è un profilo molto complesso che ricombina e alterna molteplici modelli di consumo. Le donne infatti sono molto interessanti come consumatrici, cioè come acquirenti e utilizzatrici di prodotti e servizi, ma anche come influenzatrici dei consumi altrui. Pensiamo in famiglia a quanto indirizzano le scelte di bambini, mariti e compagni, e anche come veri e propri decisori degli acquisti. Si stima infatti che le donne determinino l'80% dei consumi e le opinioni delle donne sono un fattore decisivo, per esempio per il 60% delle vendite di auto, nel senso che sono molto influenti sulla decisione della scelta del veicolo non solo in famiglia, tanto che per fare un esempio Nissan negli anni scorsi ha aumentato il numero di addette alle vendite nei suoi 2600 punti vendita in Giappone, ma anche la percentuale di donne tra i consulenti tecnici. Da una recente molto interessante ricerca realizzata da Blog Her, che vuol dire blog lei, la comunità delle donne che bloggano, che ha come sottotitolo You Say We Share It, tu lo dici e noi lo condividiamo, lo mettiamo in circolo, più di un terzo delle donne degli Stati Uniti si connette a internet leggendo, scrivendo, postando su blog. Tra queste il 38% dichiara di aver deciso di comprare qualcosa dopo aver letto un post. E attraverso siti come She Speaks, lo dice lei, molte aziende, sempre più aziende, propongono dei test di prodotto incrociando il profilo delle consumatrici che si iscrivono con il settore merceologico di interesse e fanno provare i prodotti in cambio di giudizi che vengono considerati molto autorevoli. Una recente ricerca del Censis sulla nuova identità femminile ha classificato 6 diverse tipologie, 6 modi di essere donna oggi. Sentiamo quali sono. Donne realizzate nella famiglia e sul lavoro, 20%. Sono felici, si piacciono, hanno lavori stabili e figli. Famiglia e sacrificio, 24%. Sono donne mature, con figli, per lo più casalinghe. Nel matrimonio hanno trovato stabilità, ma soffrono per aver perso occasioni di realizzazione al di fuori della famiglia. Casalinghe sognatrici, 20%. Donne giovani, sposate. Complessivamente serene, idealizzano però un modello di femminilità che non appartiene loro. Fidanzate fiduciose, 12%. Hanno tra i 18 e i 25 anni, vivono con i genitori e studiano. Hanno una relazione di coppia stabile sulla quale proiettano grandi aspettative. Single, 12%. Felicemente tali, ma talvolta dichiarano di soffrirne. Non hanno figli, ma vorrebbero averne. Rientrano in questo gruppo anche donne separate e divorziate. Anziane sole, 9%. Sono per lo più vedove con poche relazioni sociali, infelici per la condizione in cui si trovano. Patrizia, quali sono i settori in cui i segnali del cambiamento nel modello femminile sono più in evidenza? Praticamente in tutti i settori, ma alcuni storicamente maschili adesso cominciano a guardare alle donne e quindi vanno un po' segnalati. Dalle due ruote, dall'automotive, due ruote, quattro ruote, pensiamo Honda che ha lanciato questo scooter pensato per un pubblico femminile, si chiama Pleasure. La cosa interessante sono i punti vendita in cui questo scooter viene venduto, il personale è tutto al femminile. femminile e è stato introdotto lo specchio per consentire a chi sta comprando di vedersi in sella allo scooter, proprio come ci si guarda per vedere come ci stanno le scarpe, le borse e i vestiti che stiamo decidendo di comprare. Parlando di quattro ruote nel campo assicurazioni, Sheila's Wheels, Regno Unito, è un'assicurazione che recita proprio Made for Women, messa a punto per le donne, che ha delle polizze molto specifiche per donne con coperture speciali, per esempio per i furti delle borse in auto, con servizi aggiuntivi di counseling e consulenze estese anche oltre l'auto, e poi officine meccaniche gestite da donne, come nel caso dell'austriaca Frauen Auto Werkstatt, che tra i punti di forza esibisce delle toilette pulitissime, un angolo giochi con animatore per quelle mamme che portano o ritirano la macchina con i bambini, e delle riviste da sfogliare non solo di settore. Poi nel mondo food and beverage, interessanti i casi in Olanda e in Belgio di grandi brand, tra cui Heineken, che hanno introdotto birre rosé per donne, ma anche vini come Sophie & Sophie, poche calorie, pochi gradi. Non è comunque la prima volta che il mondo del vino e delle bevande in genere si sforza di pensare in rosa. In Germania già Carlsberg aveva creato Carla, una birra a basso contenuto alcolico, circa l'1%, e questo gusto ingentilito da erbe aromatiche e un mix di succhi di frutta, che l'ha trasformata in una bevanda funzionale, come si dice, quindi con anche effetti benefici sulla salute, tant'è che in termini di distribuzione veniva venduta nelle farmacie. D'altra parte tutta la cosmeceutica, cioè l'ibridazione tra cosmesi e prodotti farmaceutici, così come il cibo terapeutico, la nutriceutica, hanno come destinatari privilegiati le donne, che sono più attente al peso, alla salute e al benessere. Anche il mondo dello sport è interessante per come esprime marchi specificamente di genere. Pensiamo al sito nikewomen.com, che propone questa idea di donna sportiva che sa quello che vuole, sa come ottenerlo, coraggiosa, fiducia in se stessa, forte, eccetera. Sulla stessa lunghezza d'onda il californiano Sportive e poi Paiva, e il sudafricano Femme Sportif, oppure Outdoor Divas, più glamour e più trasgressivo. E a proposito di due ruote, anche una moto mascolina per eccellenza come l'Harley Davidson punta sempre di più al pubblico femminile. Ormai molte donne hanno conquistato il sellino anteriore, tanto che i vari modelli della leggendaria casa di Milwaukee vengono offerti con alcune opzioni che li rendono più woman friendly, per così dire. Per saperne di più abbiamo in collegamento Isabella De Alberti, responsabile marketing Harley Davidson Italia. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che percentuale di mercato coprono per voi le donne? Rappresentano in Harley Davidson le donne user intorno al 6%, che è di pochissimo inferiore, diciamo, all'andamento generale del mercato, che è intorno al 7%, e diciamo che questo segmento è sicuramente sempre più interessante per noi, ma in generale per i costruttori di moto. Quali sono questi cosiddetti pink optionals? Ce ne sono diversi, dalla sella ribassata, dalla frizione sicuramente più dolce, dalla possibilità di riposizionare le pedane. C'è una grande customizzazione nelle nostre moto, e questo lo conoscono un po' tutti, ed ovviamente quindi ogni modello si può adattare al meglio anche a un pubblico femminile. Uno dei vostri punti forti è la tribù, la community. Che cosa fate per quella femminile? Basti pensare che all'interno del nostro club motociclistico, che è il più grande al mondo perché raccoglie più di 1 milione di soci, c'è una sezione che è dedicata solo ed esclusivamente alle donne, che appunto è denominata Ladies of Harley. Per quanto riguarda in particolare in Italia, nel mondo femminile, cerchiamo di coinvolgere le donne attraverso la Women Academy, un primo approccio veramente alla moto con degli istruttori qualificati, e lo organizziamo all'interno di grandi altri eventi come il The Legend on Tour o altre cose, e questo proprio per avvicinare il pubblico femminile al nostro brand. Grazie a Isabella De Alberti per essere stata con noi. Grazie a voi. Cosa c'è di nuovo a cosa c'è di nuovo a Mosca su Pink Style e dintorni, ce lo racconta come sempre una delle nostre esperte di Memi, laboratorio di trend watching internazionale. Alessia Zampano, buongiorno, che cosa ci racconti? Buongiorno, oggi vi porto per le strade di Mosca, appunto, dove non è difficile incappare in automobili color rosa confetto guidate esclusivamente da donne. Fanno parte della flotta di Pink Taxi, un'azienda fondata nell'agosto di 2 anni fa dalla giovane imprenditrice Olga Fomina. Come potrete intuire dal nome, il servizio è rivolto al pubblico femminile, stanco di dover subire autisti maschi che nella maggior parte dei casi sono sgarbati, fumano, ascoltano la musica ad alto volume, insomma non si preoccupano minimamente del comfort del passeggero. Agli inizi la flotta consisteva di sole 2 auto e 2 autiste, ma nel giro di pochi mesi le auto sono diventate 20, le autiste 27 e le timide 40 chiamate del primo mese di attività sono diventate ben 140 al giorno. Nato quindi per garantire una maggior sicurezza alle donne e alle ragazze sole, il servizio si è nel tempo diversificato. Su richiesta, infatti, le autiste di Pink Taxi passano a prendere i bambini a scuola, comprano e consegnano fiori o ancora si occupano della spesa settimanale al supermercato. E nonostante lo scetticismo generale, soprattutto dei colleghi maschi, va detto, il successo è stato tale da generare i primi competitor. Ladies Red Taxi, ad esempio, è una compagnia che opera nella vicina città di Khimki. Anche in questo caso gli autisti sono tutte donne, ma l'elemento di differenziazione sta non solo nella scelta del colore delle auto, il rosso, ma nel fatto che di questo servizio possono usufruire anche gli uomini. Grazie Alessia. Patrizia, quale sarà la donna del futuro e soprattutto come si muoveranno i servizi e i prodotti destinati al target femminile? Questo target femminile sarà sicuramente al centro dell'attenzione, perché la donna, come abbiamo sentito nella scheda e come abbiamo detto in apertura, ha un profilo e un modello di consumo multiplo, perché ha un'identità multipla e dunque in termini di nicchia di mercato rimane un target ancora da esplorare e di grande interesse. Essere avere @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre segnalazioni e i vostri suggerimenti. Vi aspettiamo ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.